Beh, è decisamente interessante questa faccenda qua creata ad hoc da Empty Set, una delle formazioni difficile anche da definire, tra una specie di dubstep portato all'estremo attraverso un suono tecnoide che ricorda certi Pansonic, forse i primi lavori di Mika Vaino, e anche appunto questa traslazione ritmica che questa sera sta interessando, 451 frammenti sonori, che è proprio data da questo mutare sia dentro il corpo techno che dentro il corpo dubstep, in più con questo suono quasi chirurgico dell'utilizzo del noise, è veramente notevole e di veramente di ottima fattura, proprio per il fatto di essere utilizzato in maniera molto calibrata, molto potente, quasi ritmica, appunto, quasi a creare una sorta di ritmicità e di traslare ulteriormente già quello che fanno, insomma, gli Empty Set, da un po' di anni, non moltissimo, una formazione anche abbastanza giovane, tra l'altro è anglo-inglese, cioè c'è un James Gimburz che viene proprio dall'America, e un Paul Purgas che viene tra l'altro dall'Inghilterra di Bristol, quindi ha a che fare molto con quello che era anche il trapasso, la traslazione del dub e dell'hip hop dentro quel fenomeno che appunto fu di Bristol definito trip hop, ma che insomma poi di fatto insomma prendeva le musiche nere e le ritmiche nere le trasformava in un suono più cupo, più urbano, cosa che poi insomma per vari passaggi è diventato poi anche il dubstep, con il two-step di passaggio, anche con il drum and bass, insomma un quacervo, un continuo inseguirsi di riferimenti, ma anche appunto di sperimentazioni dentro questi riferimenti chiari, ma che poi, come dire, vengono poi mischiati e sbiadiscono proprio come finalità, perché appunto il suono di Empty Set diventa anche piuttosto originale, nasce originale e sta continuando appunto, tra l'altro ancora mettendo più carne al fuoco, addirittura arrivando in questi ultimi mesi a lavorare con Noto, con la Raster Noto, e quindi con quel suono glitch assolutamente chirurgico, matematico, ma non per questo freddo, anzi tutt'altro. Da Empty Set, due grossi personaggi sì, che sembrerebbero assurdi insieme. Infatti effettivamente quando l'abbiamo sentito la prima volta siamo rimasti colpiti, perché io stesso dicevo ma come, ma siamo sicuri? Cioè Oran Ambarshi con Thomas Brinkman. In realtà invece è proprio così, infatti sembrava quasi uno scherzo, però forse la nostra sorpresa era anche sbagliata, perché in realtà Brinkman è un autore, un musicista che si è mosso sulla scena elettronica, in particolare sulla scena sperimentale techno, ma è andato anche sull'house, su sperimentazioni che stiamo attraversando anche stasera all'interno di traslazioni ritmiche, però è sempre stato apertissimo a sperimentazioni da flusso ambientali o comunque percorsi e flussi sonori particolari, come Oran Ambarshi, che invece è conosciutissimo sul piano proprio della musica elettronica sperimentale, con anche appunto elementi di musica improvvisativa, con nubi strettamente legati con strumentazioni analogiche e strumentazioni digitali, comunque un altro autore che si è sempre aperto a ogni tipo di contaminazione. Dunque in realtà, se dovessimo andare proprio a cercare la storia di questi autori, anche se si sono mossi su territori in realtà paralleli, anche in alcuni casi intersecanti, non è poi così impossibile pensare appunto a una commistione, a un lavoro insieme, e così hanno fatto, si vede anche loro ci hanno pensato, hanno detto ma chissà se insieme alle ritmiche, alle ritmicità estremamente particolari elaborate di Brinkman, si può collegare il flusso sonoro, l'attenzione all'aspetto del suono, ai quasi buchi neri costruiti da Oran Ambarshi insieme appunto a Brinkman, e sono riusciti a costruire questo ottimo lavoro uscito proprio nel 2012 per la Black Truffle, dove appunto Brinkman con Oran Bashi costruiscono questo splendido lavoro, The Mortimer Trap, uscito circa un anno fa ormai, perché appunto vediamo la data d'uscita proprio a febbraio 2012, dove veramente si va oltre l'idea ambientale o l'idea di flusso e si costruisce proprio un percorso concettuale estremamente interessante, dove oltretutto compare, ma non sappiamo bene perché e come, la figura di Morton Feldman. Andremo alla ricerca, dunque vi daremo anche questa notizia postuma in caso della trasmissione prossima, o chissà, lo inseriamo. Inseriamo proprio Feldman. Sì, Feldman direttamente dentro la scaletta, anche se non c'è più da parecchio tempo, però si vede che è ancora dentro, ma sicuramente è collegato a qualcosa di questo lavoro, sì, anche se non è chiaro. Sembra composta tutta l'opera, però non accreditata, bisogna capire bene, non abbiamo altre informazioni. L'abbiamo scoperto proprio pochi minuti prima della messa in onda della trasmissione, dobbiamo ancora capire perché. Intanto ce lo godiamo, ovviamente un piccolo estratto, perché il brano è un flusso unico di 80 minuti, ci andiamo ad ascoltare un brano dove appunto la dimensione proprio ritmica emerge in maniera assolutamente geniale dentro il flusso creato da Ambashi e Brinkman. Thank you. ormai c'eravamo anche noi immersi in questo splendido flusso, forse anche al di là del flusso, ed è stato veramente bello anche poterlo riascoltare in radio, perché l'effetto è particolare al di là dell'ascolto che ognuno può fare in termini singoli, individuali o allargate a qualche altra persona a cui siamo particolarmente vicini a livello di ascolti musicali. Veramente bello, e soprattutto ci ha portato alla memoria un sacco di collegamenti rispetto alle atmosfere, alla concezione proprio del brano. In primo luogo avevamo proprio pensato e riflettuto sul fatto che dentro questo splendido lavoro poteva stare perfettamente una tromba effettata di Miles Davis, perché in alcuni momenti di questo brano, quando si è aperto chiaramente con l'inserimento di questa linea ritmica sottile però estremamente presente dentro il brano, e soprattutto questa loop di basso elettrico funkeggiato che Brinkman magistralmente ha loopato e anche effettato per creare questa sorta di ciclo all'interno dello stesso flusso, quasi ci fossero più realtà o dimensioni dentro una stessa struttura spazio-tempo. Ecco, lì dentro veramente si poteva ritrovare le dimensioni psichedeliche e ipnotiche di Davis degli anni 70 e non solo. Dunque sicuramente splendido il lavoro e splendida l'unione geniale di Oran Barshi e di Thomas Brinkman. Un'altra versione, un'altra traslazione che abbiamo voluto inserire in questa seconda parte, una traslazione ritmica che appartiene proprio a quella idea che avevamo all'inizio di questo percorso settimanale in costruzione proprio della trasmissione di stasera. E da Brinkman e Oran Barshi ricordiamo ancora l'album uscito proprio nel 2012. Andiamo a certo, pescare. Abbiamo anche scoperto. Ah, giusto, è vero che, scusa, vedi, il flusso ormai. eravamo entrati. Sì, abbiamo scoperto, andando un po' alla ricerca dentro questo magico mondo, che insomma di magico ha qualche cosa, ma molto altro invece di poco magico e molto commerciale, ma ancora ci sono dei piccoli spazi di manovra dentro la rete, e abbiamo trovato qualche notizia rispetto a questa strana cosa, questa strana notazione legata a Morton Feldman e poi successivamente anche a John Tilbury. In realtà abbiamo scoperto che appunto il brano che poi è l'intero album che abbiamo appena ascoltato, in realtà è una manipolazione di un file sonoro, di una registrazione sonora di John Tilbury al piano, di una composizione di Morton Feldman. Adesso però l'abbiamo persa, l'avevamo trovata, così dicevamo anche qual era il brano di riferimento. Vediamo se la ripeschiamo. Sì, che l'ho ripescata. È una performance appunto di Tilbury su una composizione di Morton Feldman intitolata For Bunita Marcus, interamente costituita proprio da un'esecuzione pianistica di 77 minuti, quanto appunto il brano che hanno costruito Brinkman e Arbashi. Dunque sicuramente una manipolazione sonora, abbiamo ipotizzato noi, che potremmo anche sbagliarci, proprio della composizione pianistica, probabilmente costruita col flusso sonoro di Oran Barshi. Potrebbe dare, visto che poi Brinkman ha già fatto questo tipo di operazioni in passato, appunto elaborando proprio sia con la disco ma anche con varie opere concettuali, insomma proprio prendere interamente un pezzo e per il tempo, insomma la durata, trasformarlo e manipolarlo proprio nella riproduzione del pezzo stesso, quindi anche molto interessante. DJ Set faceva anche queste diavolerie, e bentornato insomma Thomas Brinkman, da un po' che mancava, po' di EP ma niente di particolarmente eclatante, invece questo disco insomma lo fa ritornare insomma tra i grossi dei nostri giorni per quanto riguarda gli sperimentatori, e probabilmente uno invece che non manca in questi anni, anzi più passa il tempo più sta acquisendo insomma un ampio spettro sonoro e di sperimentazione, complicando anche la faccenda in maniera decisamente interessante. E Shackleton, partito insomma dalla dubstep più riconosciuta, quella di Buria, quella della hyperdub, per arrivare a un piano veramente suo, sonoro, una traslazione decisamente interessante della ritmica con strani connubi con mondo jazzistico, qua anche ritorna una sorta di Miles Davis traslato, sia appunto con Ambarchi e Brinkman, ma anche con questo Shackleton, e anche piani come poteva appunto interpretare la band di Davis negli anni 70, questo oriente che diventa qualcosa di extraterrestre, quasi un incontro di mondi, insomma incontro scontro di mondi che non sembrerebbero non collegarsi, in realtà insomma dub, oriente, jazz, tutto mischiato, tutto poi con questa vena vagamente onirica che unisce i due lavori di Ambarchi e Brinkman e anche questo appunto di Shackleton, tra l'altro disco dedicato anche alla quiete, infatti Music for the Quiet Hour, unito a un altro EP The Drum Bar Organ, ma noi ci occupiamo della quiete, le ore quiete appunto nella quarta parte di Shackleton. Is and it is now. Oh, it is and it is now. Oh, it is and it is now. Oh, it is and it is now. Oh, it is. It is. It is. It is. It is. It is. Is. It is. Is. Is. It is. Is. Thank you. understand that the whole world was made up of nation states. Wars are a bit difficult for you to understand. When you call them walls, I'm not sure if you mean it in a literal sense or not. But for the most part, in my time, the borders are not walls. They're partly conceptual walls that exist in people's minds. But because this concept has gained a widespread acceptance, they actually take on physical form. There are guard posts, checkpoints, passport controls, that sort of thing. That sort of thing. That sort of thing. That sort of thing. Thank you. come decostruire un brano techno con grande maestria, Lee Gamble, giovane autore che qua si produce in un live al Boiler Room. Tra l'altro vari artisti si stanno presentando e presentano, insomma, attraverso l'etichetta Boiler Room dei live legati appunto a quella che fu probabilmente qualche anno fa un'importante deriva sperimentale della musica techno, quella che fu definita minimal techno prima che ci fosse, insomma, non la deriva ma la deviazione, diremmo minimal e basta, appunto miniaturizzando il suono, ma quello che viene appunto dalla scuola sia di Thomas Brinkman, come buona parte della Mille Plateaux, come d'altronde anche non citare forse uno dei grandi maestri di questo suono dub techno, creato in una sorta quasi di camera iperbarica dove i suoni prendono quasi una vita propria, assolutamente distante da quello che è il suono astante, oppure al contrario, sembra quasi che il dub e la techno vibrino dentro l'aria, una sorta appunto di musica paradossale, quella di Moritz von Oswald, che arriva appunto alle corde di Lee Gamble, si muove attraverso quelle che sono le ricerche appunto del grande von Oswald e anche quelle che appunto poi furono anche i percorsi paralleli di Thomas Brinkman, visto che l'abbiamo anche ascoltato prima, è tutto con questo rumorismo che ricorda tanta dubstep più astratta, più legata all'ambient, e questo anche rumorismo che dentro Maurizio c'era, ma era ancora, come dire, all'interno della ritmica. Qua esce anche, prende anche forma, insomma, come possiamo sentire appunto da queste staffilate noise, prende appunto anche proprio una strada propria, uscendo anche in maniera piuttosto, insomma, evidente dentro le musicalità di Lee Gamble, che sicuramente, insomma, seguiremo. Per ora l'abbiamo ascoltato appunto da questo live in Boiler Room. Splendido lavoro, abbiamo fatto oltretutto un mix piuttosto lungo, ma meritava, perché veramente il lavoro sia di Shackleton che di Gamble merita grande attenzione. Sono personaggi che dobbiamo seguire, speriamo che gli ascoltatori li seguano, perché stanno facendo delle cose splendide in questi ultimi anni. E da questi autori che si muovono appunto in questi territori traslati ritmici e non, perché vanno anche oltre, sì. Andiamo a trovare un altro personaggio che anch'esso va abbastanza oltre, anche come progettualità musicale, artista giapponese che è emerso all'inizio degli anni zero, ha portato avanti per un po' di tempo le sue sperimentazioni per poi fermarsi e riapparire in questi ultimi due anni. Si tratta di Suzumi Makai, in arte Zongamin, autore che si muove in un'atmosfera di chiari riferimenti dei primi anni Ottanta, in particolare i riferimenti legati all'elettro, al funk, ma anche a musica, alla musica hip hop, all'house e a tutto quello che, diciamo, attraversa la black music in tutte le sue ritmicità, pur essendo un giapponese, ma questa appunto è una delle traslazioni. Sono passati stasera tedeschi, no? Inglesi, bianchi su bianchi, giapponesi, ma appunto questa è la traslazione che avevamo anche pensato prima appunto di partire, anche giamaicani, bravo, prima di partire appunto in onda stasera su Radio Città del Capo. Zongamin, la cosa divertente è che all'interno di questo splendido album che ascolteremo adesso un paio di tracce, un album uscito nel 2003 che è omonimo, dunque si intitola proprio Zongamin, E andremo, oltretutto abbiamo scoperto anche che all'interno di questi brani ci sono anche un paio di brani che ricordano le colonne sonore di matrice morriconiana. La cosa divertente è quella, ma i giapponesi non sono la prima volta che amano questo tipo di atmosfera. Dunque si alternano dimensioni tra house, funk, elettro, hip hop. Questi brani invece che rallentano, quasi aprono in un'atmosfera completamente differente, spazio-temporale, dove appunto si ritrovano le atmosfere, le linee sonore di matrice morriconiana. Molti scrivono ricordando gli spaghetti western, ma in realtà appunto questa è una classica definizione filmica che ci sta, ma che non è ovviamente omnicomprensiva. Ce l'andiamo a sentire dunque, Zongamin, e ce l'andiamo a sentire, basta. We'll be right back. e abbiamo chiuso il nostro percorso sonoro in maniera anche un po' anomala. Abbiamo traslato anche noi ulteriormente quello che non si poteva più traslare. Abbiamo fatto un bel flusso sonoro, una bella traslazione, però tutto sommato anche omogenea a livello sonoro per tutta la seconda parte, ma nel finale abbiamo voluto dare questa ulteriore sterzata, inserendo appunto quasi forse riannodando i fili, ricollegandoci alla seconda parte della prima parte, scusate il gioco di parole, ma diciamo la parte finale della prima parte, la parte d'apertura della trasmissione, dove avevamo attraversato gli universi di Moody, Maurice Fulton, soprattutto legati ovviamente a questa dimensione di electro-funk house, estremamente connessa, con forti richiami chiaramente agli anni 80, e l'abbiamo voluta ovviamente ricollegare in questo finale con il progetto di Zongamin, e ora con quest'ultimo brano che è tratto dal progetto Cyclops, che in realtà è ancora Maurice Fulton, però insieme, un progetto insieme a ben altri quattro musicisti. Non vi do i nomi perché sono veramente allucinogeni i nomi, credo che siano finlandesi, e hanno costruito questo progetto di ben cinque elementi con lo stesso Fulton, che si muove sempre sui territori legati al funk, all'electro house, in parte anche alla techno, e anche con alcuni riferimenti alla disco anni 70, che però ora non avevamo ascoltato in questo brano, ma che è presente in questo disco uscito nel 2008 e intitolato I've Got My Eye on You. Uno splendido lavoro anche questo, e dunque abbiamo voluto ricollegare questi pezzi. Sì, tra l'altro un collegamento appunto con la seconda parte della prima parte, come dicevamo, e con queste due strane frequenze che attraversano da più di 40 anni le musiche tutte o quasi tutte, soprattutto quelle insomma legate a una certa ritmicità, ovvero il funk, l'electro funk da una parte, il dub e la traslazione appunto dub dall'altra, e anche attraverso incroci che possono avvenire tra le due faccende, tipo quelle appunto di mischiare quello che è l'elaborazione poi ulteriore dell'elettro funk dentro la techno detroitiana e quel suono che poi va anche ad attaccare poi quella a Berlino di Maurizio di von Oswald, che abbiamo sentito insomma declinato poi attraverso i suoi figli più o meno legittimi. Illegittima, ci piace illegittima, più bello illegittimità, sì, no? E d'altronde sono personaggi e musiche soprattutto molto illegittime, si muovono su traslazioni che appunto portano poi a nuove esperienze anche musicali legate a, appunto a questa sorta di mai domare le ritmicità, anzi di liberarle sempre dentro quell'aspetto che in nuce, no, vede anche dentro musiche danzabili, poi anche quella pericolosità, quella alterazione che ci piace appunto tante volte inserire qua, 451 frammenti sonori. Bene, siamo arrivati alla fine. La fine del mondo, ma la fine del mondo, no, quella non è poi successa. In realtà lo dico spesso, ma è successa, ma non ce ne siamo accorti. Ah, è vero, l'avevi già detto. Come è già successa, ma non ce ne siamo accorti. In un episodio di Rogo Pug di Godard. Solo uno se ne accorge che è la fine del mondo, cerca di spiegarlo agli altri. Ma nessuno lo capisce. È avvenuta molti anni fa la fine. E dunque siamo a posto. Va bene. Sì, siamo a posto. A posto è una parola grossa. Impegnativa, però, quantomeno. Però ci possiamo impegnare, dai. Infatti. Nella parola impegnativa. Vabbè, un saluto allora per tutti gli ascoltatori, una buona nottata. Qua hanno buttato sale intorno al centro, qua vicino alla sede radiofonica. No, perché domenica grassa. Buttano il sale, che porta fortuna. Ma non c'è un proverbio che dice che il sale porta iella? No, il sale porta iella. Che sale? No, non è l'olio. L'olio, ma anche il sale. Anche il sale. Ma anche il burro, la carne. Se ti cade qualcosa da mangiare, insomma, non e se mangiare, porta, comunque sta buttando il sale che dovrebbe arrivare sta tempesta, la tempesta perfetta. Ma no, ma è uno scherzo di carne. Anche secondo me. Siamo qua domenica grassa. Domenica grassa, ma non è il martedì grasso. Ma infatti, ma non è, adesso è diventato giovedì, venerdì grasso. Visto tutto. Sabato grasso ieri, domenica grassa. Tutti grassi? Tutti grassi. Allora tu non puoi girare, che sei magro. Un falso magro. Sei un falso magro, un falso e basta. Munnezza. Va bene, vi auguriamo una buona notte e chiaramente per coloro che vogliono andare a spulciare le nostre notizie musicali e la nostra trasmissione messa in rete sempre sul nostro blog noblog, che è 451frammentisonori.noblogs.org. Una buona notte da Max Macchia e da Eliseo Grasso. Grasso. Anche tu sei diventato grasso. Ma quello solo un po', va bene. No, non si dicono queste cose. Si pensano e basta. Ah sì? Sennò poi dopo il pubblico femminile o anche quello maschile, anche quello animale, anche gatti, magari. Buonanotte.